Buonasera a tutte e tutti. Siamo qui per presentare il primo libro del gruppo di lavoro Nicoletta Burbacchi, che esiste da 10 anni, ma ha avuto finora una produzione solamente online, a parte una guida autoprodotta, una guida didattica autoprodotta per riconoscere i falsi storici, che si intitolava Questo chi lo dice e perché, ma diciamo era un'autoproduzione che non aveva una distribuzione in libreria e che era scaricabile, è tuttora scaricabile in PDF ed era venduta in cartaceo alle presentazioni. Qui invece si è fatto un salto di scala, perché dopo 5 anni di lungo lavoro e di ricerche, di sopralluoghi, di compulsazione di fonti d'archivio, possiamo invece parlare di un libro vero e proprio, un titolo, come quando si dice che uno ha dei titoli, ha delle pubblicazioni. Nicoletta Burbacchi ha una pubblicazione. La morte, la fanciulla e l'orco rosso, il caso Gersi, come si inventa una leggenda antipartigiana. Allora, partiamo, io faccio un intervento introduttivo, arriverò poi in fondo a zoomare sul libro, e del libro giustamente parleranno Luca e Benedetta, che fanno parte del gruppo di lavoro Stricto Sensu che ha prodotto il libro. Il gruppo di lavoro Nicoletta Burbacchi all'inizio non si chiamava così, era un gruppo che non aveva un nome fisso nei suoi primi anni, che si occupava principalmente di Wikipedia, delle distorsioni e falsificazioni storiche che l'estrema destra faceva e tuttora fa con un'attività implacabile, nel senso letterale del termine non si riesce a placarli. Centinaia di voci dedicate al Novecento, alla guerra di liberazione, al ventennio fascista, ma anche agli anni 70, voci di argomento storico appunto sulla Wikipedia italiana, sono gravemente compromesse da questa attività dietro le quinte, che viene fatta formalmente corretta perché alla lettera rispettano quelle che sono le regole che la comunità wikipediana si è data, ma in realtà c'è tutto un modo di piegare quelle regole in modo da poter far passare contenuti ignobili di rivalutazione dell'esperienza fascista, di diffamazione della guerra partigiana e quant'altro. All'inizio Nicoletta Burbacchi, che ancora non si chiamava così, si occupava principalmente di questo, di mostrare come funziona la macchina che dentro Wikipedia produce appunto narrazioni di questo tipo. Se anche riusciti a demistificare delle voci, a far togliere dei riferimenti particolarmente eclatanti nella loro calunniosità nei confronti della resistenza, si è anche svelato che delle fonti erano false, erano inventate di sana pianta, si continuavano a citare, costoro continuavano a citare un libro che abbiamo scoperto non essere mai stato pubblicato. Non esisteva nemmeno la casa editrice, si chiamava Assassini nella storia il libro, e continuavano a citarlo con tanto il numero di pagina, e non esisteva. Questo per dire, no, il livello di accuratezza di queste voci di Wikipedia. La battaglia su Wikipedia sarebbe importante continuare a farla, ma è molto difficile da fare. Ricordiamo che Wikipedia è la prima fonte a cui accedono gli studenti e le studentesse quando gli chiedono di fare una ricerca, e anche la maggior parte dei giornalisti, quando non sanno niente di un fatto di cui devono scrivere, vanno su Wikipedia, leggono, capito, trovano delle porcherie e poi le riportano tali quali, senza la minima verifica. Si era anche riuscito a dare dei nomi ad alcuni, non dare dei nomi in senso bolognese, insultare, a dare dei nomi, proprio ad attribuire dei nomi, delle identità, quantomeno dei percorsi chiari ad alcuni personaggi. Si erano fatte delle inchieste su alcuni proprio singoli inquinatori delle voci di Wikipedia, uno che si firmava José Antonio, ad esempio, di cui si è dimostrato che era dovuto alla sua indefessa attività proprio la corruzione proprio nei contenuti di centinaia di pagine, no? Dopodiché il gruppo ha allargato il suo raggio non più alla sola Wikipedia, ma a tutte le varie leggende urbane, fascistoidi, militariste, nazionaliste e antipartigiane, antifasciste, che circolano in rete. Si è fatto un lavoro molto intenso sulla questione delle foibe, del confine orientale, si è fatto un lavoro di demistificazione della storia di Norma Cossetto, uno dei cavalli di battaglia appunto della destra. Si sono denunciate alcune operazioni come la distribuzione in diverse scuole d'Italia di un fumetto di chiaro stampo neofascista pubblicato nella casa editrice vicina a Forza Nuova, che si chiamava Foibe Rosse. Si è fatta un'analisi puntuale del film Red Land, dove i nazisti sono i buoni, e che però ogni 10 febbraio viene mandato in onda dalla RAI. Insomma, si è fatto un lavoro molto grosso, e a un certo punto nel 2017 si è sentito un certo tanfo di escrementi quando il Corriere della Sera ha dato grosso rilievo a una polemica che era in corso in Liguria, nel Savonese, che riguardava una targa che un'amministrazione di destra voleva mettere in ricordo di una martire uccisa dai partigiani. Veniva descritta questa martire come una bambina di 13 anni che era stata seviziata, stuprata e uccisa dai partigiani, Giuseppina Gersi. L'ANPI locale si opponeva a mettere questa targa perché diceva che la storia era falsa, come era raccontata, che in realtà Giuseppina Gersi era stata giustiziata perché era una delatrice, aveva fatto, insomma, arrestare e probabilmente anche uccidere degli antifascisti. Questa polemica fin da subito è stata inquadrata, aveva un frame narrativo e concettuale ben preciso, che era quello delle narrazioni revanchiste di estrema destra, che nel corso degli anni, nel frattempo, sono percolate nel mainstream grazie all'opera di personaggi come Pansa e altri, e quindi fin da subito anche il Corriere, quando l'ha ripresa, ha dato questa impronta: i partigiani che non vogliono che si sappia la storia della bambina stuprata dai partigiani, no? Dai partigiani stessi. Quindi con degli attacchi molto violenti all'ANPI. L'ANPI nazionale, come sempre, ha giocato in difesa, anzi non se neanche difesa, ha fatto un comunicato stampa anodino, che ha semplicemente peggiorato la situazione. Lì Nicoletta Burbacchi si è messa insomma al lavoro su le incongruenze della storia come veniva raccontata nelle fonti che si trovano online. Quindi il metodo era quello, no? Anche senza fare un lavoro d'archivio sulle fonti primarie si può capire subito da determinati marcatori, da determinati indicatori, da svariate incoerenze, che questa storia è falsa. E quindi si è fatto un primo post sul caso Giuseppina Gersi, ed era proprio il 2017. In fondo quel post si prometteva: però adesso parte il lavoro vero, cioè nel senso che andremo a cercare negli archivi le fonti primarie, le fonti documentali primarie, le testimonianze che hanno lasciato traccia in fonti documentali, e faremo un lavoro vero e proprio per capire chi ha inventato questa balla, sulla base di che cosa e cosa è successo davvero, almeno per quello che si può ricostruire. A distanza di ben 5 anni questo libro è quel lavoro. È stato preso un impegno, è stato assunto un impegno, è stata fatta una promessa. Oggi questa promessa viene mantenuta ed esce così La morte, la fanciulla e l'orco rosso, che veramente è stato un lavoro, una fatica di Sisifo, è stato un lavoro lunghissimo. Si sono visitati diversi archivi di Stato, si sono fatti sopralluoghi per capire bene le distanze tra i luoghi, perché questa è anche una storia dove la topografia di Savona ha una certa importanza. E quindi se andate a scoprire, ora non vado più in là di quello che è già scritto nella bandella, che effettivamente sì, Giuseppina Gersi era una spia, era una delatrice, minacciava la gente in giro scortata da militi, aveva anche una pistola, fece effettivamente arrestare degli antifascisti che probabilmente sono anche finiti male. Di questo si vantava pubblicamente e questo emerge dalle fonti documentali, mentre tutti i dettagli macabri e splatter diffusi dai fascisti e presi acriticamente dalla stampa nazionale a partire dal 2017 invece non trovano il minimo riscontro in nessuna fonte. Ci furono indagini di polizia, ci furono dei processi, ci sono appunto documenti su documenti, faldoni su faldoni, e non si trova nulla di quello che oggi viene raccontato. A quel punto il lavoro che fa il libro è capire ma da quando, a partire da quando si sono cominciate a raccontare queste versioni splatter che non trovano nessun riscontro in quello che è accaduto davvero, e allora lì si ricostruisce, ed è probabilmente la parte più importante del libro, la storia della storia, come si dice nell'introduzione, non la storia, che alla fine si riduce a ben poco. Questa qui è stata uccisa nel caos della liberazione per una vendetta di antifascisti, perché questa qui aveva fatto arrestare della gente, no? Poco prima di compiere 14 anni, e si è fatto anche molto sensazionalismo su questa storia dell'età, ma se noi ricordiamo che tra i partigiani stessi c'erano 15 anni, 14 anni, 16 anni, era normalissimo nella guerra civile, era normalissimo da adolescenti già militare, e quindi figurarsi essere una delatrice, se una a 14 anni non poteva essere una delatrice. Tra l'altro non ho ancora detto che si ricostruisce anche, insomma, tutta quello che era la famiglia di Giuseppina, perché intorno aveva, insomma, i suoi genitori, lo zio, cioè sono delle figure che erano odiatissime dalla Savona popolare e nemica del regime. Ma la cosa più importante è proprio la storia della storia, perché qua ci sono i nomi e i cognomi di quelli che hanno cominciato ad avvelenare i pozzi a partire dagli anni 90. Alcuni sono vecchie conoscenze nostre, di chi ad esempio si è occupato della lotta Notav, Massimo Numa. Massimo Numa era uno dei giornalisti che più aggrediva, proprio attaccava anche con metodi che poi sono venuti fuori, insomma, dire discutibili non rende l'idea, ma ha fatto delle campagne furibonde contro il movimento Notav in Val Susa, un giornalista della Stampa. Non ci ha sorpresi scoprire che lui è uno dei capostipiti di questa ur narrazione completamente inquinata e morbosa delle sevizie, dello stupro, eccetera, in un libro che scrisse a inizio anni 90, che si chiamava La stagione del sangue. Ma come lui e altri, qua ci viene fatta tutta una mappatura di questi personaggi e di questa rete di blog che, prima ancora che ci fossero i social, ha cominciato a diffondere queste storie, che poi si sono arricchite di sempre più particolari e hanno contribuito a costruire, in interazione continua con quello che avveniva più in alto anche a livello istituzionale e con quello che delle voci più forti come quella di Pansa nel frattempo cominciavano a dire, a costruire un senso comune anti-antifascista. Alcuni lo chiamano post-antifascista, ma in realtà è anti-antifascista, detta come va detta. Allora, il caso Gersi diventa, diciamo, il prisma attraverso cui far passare un raggio di luce per poi andare in tutte le direzioni e contribuire a illuminare un vero e proprio ecosistema informativo e ideologico. Aggiungo l'ultimissima cosa. Qui si parla anche di un altro caso, il caso di un finto eccidio di cui parlano i fascisti, un eccidio che non è mai avvenuto, non si sa nemmeno chi siano le vittime, cioè è incredibile, continuano a dire 200 persone morte, o il numero poi cambia, però non hanno un nome, un cognome, non c'è un corpo, non si sa dove sarebbero sepolti, e però ogni anno vanno a commemorare questo eccidio. Monte Manfrei, sempre in Liguria, i personaggi che hanno inventato questa finta strage, e qui viene ricostruita anche tutta la falsità di questa strage, sono gli stessi che hanno di fatto inventato il caso Gersi. Lascio la parola ora a chi per primo? Comincia Benedetta, ok, e grazie per essere venuti qua. Ok, grazie anche da parte grazie anche da parte mia di essere qui. Allora, dunque, da dove potremmo cominciare? Ah no, comincio dalla fine dal Monte Manfrei, perché ogni anno vanno a fare queste commemorazioni in questo posto che è il sacrario, con le croci dei caduti, ma in realtà, siccome siamo andati anche lì a vedere ma quali nomi ci sono su queste croci, per poi andare a vedere a chi sono questi, sono tutti altri nomi, e poi sono persone morte altrove, in altri momenti, dopo, quindi proprio non si sa come dire quanto sia falsa questa narrazione, che però a noi serviva non solo perché geograficamente è più o meno la stessa zona, non solo perché le persone che la raccontano sono le stesse che poi raccontano di Giuseppina Gersi, ma anche perché a noi serviva per creare una forbice, no? Perché nelle narrazioni antipartigiane si va da un estremo all'altro, nel senso che si va dal caso appunto del Monte Manfrei, in cui la realtà storica è completamente diversa da quello che viene raccontato, quindi c'è un falso vero e proprio al 100% praticamente. Beh sì, no, c'erano stati alcuni morti logicamente, ma insomma in guerra, ecco. E al caso invece appunto di Giuseppina Gersi, in cui in realtà la verità storica, o quantomeno quello che si può ricostruire dalle fonti e dai documenti, invece è vicina, o apparentemente è vicina alla narrazione che viene fatta dai fascisti, anche se in realtà è stata uccisa. Questa è esatto, perché poi bisogna avvicinarsi, perché in effetti lei sì è stata uccisa proprio nei giorni dell'insurrezione di Savona. E quando noi abbiamo intercettato nel nostro radar questa storia, eravamo in un periodo in cui forse dopo che avevamo anche cominciato a occuparci di Norma Cossetto eccetera, ci sono arrivate tutte queste storie di giovani donne vittime della crudeltà dei partigiani. E addirittura avevamo incrociato la storia di una ragazza che in realtà non è mai esistita, Yolanda Crivelli, o almeno non esiste nessuno che ha quel nome e che sia vissuto in quel periodo per essere uccisa dai partigiani. Oltretutto, per raccontare la storia di questa Yolanda Crivelli si utilizzava una fotografia che alla fine abbiamo scoperto era un frame di una performance di un'artista contemporanea che si appende agli alberi, e quindi c'è appunto questo corpo di donna appeso per un piede, nuda, che veniva spacciata per appunto questa vittima della crudeltà dei partigiani. Quindi quando abbiamo intercettato la storia di Giuseppina Gersi, c'è da dire che sospettavamo che il caso fosse non esattamente come questo, però abbiamo detto forse stiamo più o meno in questa in questo rumore, ecco. E in realtà poi non solo abbiamo dovuto studiare 5 anni per scrivere il resoconto, ma più andavamo avanti e più non solo venivano fuori altri racconti antipartigiani scritti appunto sempre dalle stesse persone, ma ci siamo resi conto che veramente si poteva fare, oltre alla ricostruzione storica con le fonti, con i documenti, seguendo il nostro maestro Bloch, quindi il metodo storico critico, le fonti messe nel loro contesto, messe in dialogo tra di loro, quindi una ricerca storiografica, ma era necessario, e quindi in questo senso posso dire che facciamo anche una proposta di metodo, era necessario anche affiancare alla ricerca storiografica pura una ricerca più filologica da un certo punto di vista, per rintracciare quindi le narrazioni su questo caso, ma anche riflessioni sulla storia della mentalità, la storia delle idee, così. Quindi in un certo senso si possono affrontare i casi di narrazioni antipartigiane considerando che sono delle narrazioni, e che quindi bisogna smontare, o comunque bisogna rispondere non solo con le fonti o con i documenti, ma anche cercando di capire come sono nate, chi le ha portate avanti e anche quale strada hanno fatto. Perché che cosa abbiamo visto? Allora, Numa è stato il primo alla fin fine, perché più indietro degli anni 90 non siamo riusciti. Anche la pubblicistica fascista pura, mi verrebbe da dire, cioè quella nata proprio nell'immediatezza della fine della guerra, non la riporta, forse in qualche elenco, però non viene mai utilizzata come caso emblematico della violenza partigiana. E comincia appunto Numa negli anni 90, sicuramente riprendendo, sicuramente, no, non si può dire sicuramente, molto probabilmente prendendo storie che venivano in ogni caso raccontate, poi arriva un volume dal titolo emblematico, cioè il Boia di Albenga, che di nuovo parla del caso, poi arriva Panza, ecco, con Panza si arriva veramente al mainstream. E a questo punto che cosa succede? Cioè, e questo l'abbiamo visto anche in altri casi, quando queste narrazioni dal racconto locale arrivano al mainstream, acquisiscono maggiore importanza, no? Ne ha parlato Panza, quindi vuol dire che è vero. Non importa che Panza non citi mezza fonte, non dia nessun appiglio di nessun tipo, però l'ha detto lui. Se l'ha detto Panza, la storia ritorna, in questo caso, nel nostro caso, ritorna a Savona con una specie di timbro di autorevolezza, no? E quindi i neofascisti, i fascisti locali, la possono di nuovo ritirare su dicendo l'ha detto Panza. A questo punto si arriva al 2000 e quindi 2000 inoltrato e quindi i blog, appunto, e poi i social, dove la storia ha già fatto due giri praticamente, e quando arriva sui social, lo sappiamo, si diffonde e si auto sì, perché si autoalimenta e anche riacquisisce autorevolezza, perché c'è il post. E poi, come sappiamo, ribattere sui social, dove bisogna essere brevi, veloci e così, è impossibile. Dico solo l'ultima cosa, poi lascio la parola a Luca. Quali sono le caratteristiche che vediamo benissimo nel caso della narrazione della storia, appunto, della storia di Giuseppina Gersi? Che cosa quali elementi si prendono? Sì, la violenza dei partigiani, che però è una violenza, appunto, l'orco rosso, perché viene compiuta contro una bambina, una donna, e entra appunto la questione della violenza, che non entra praticamente mai, anche nella documentazione dell'epoca non c'è alcun riferimento allo stupro, alla violenza contro di lei, ed è per questo che Giuseppina Gersi è una martire. Addirittura abbiamo rintracciato anche il tentativo di cominciare una causa di beatificazione per Giuseppina Gersi, in quanto martire, uccisa, non so, probabilmente per difendere la sua verginità, mi viene da dire così, insomma, che però un po' forse, ecco, sì, va bene. L'ha detto lui. L'hai detto tu, eh? Io non ho detto niente. Va bene, Luca, gli diamo il... Sì, sì. Ok. Questa cosa del marchio di autenticità di Panza, sia, diciamo, presso il grande pubblico, sia presso gli interessati, cioè quelli che sanno benissimo che cos'è Panza, ma se ne fregano e lo usano come fonte autoritativa, diciamo, come auctoritas, è molto, proprio molto, molto tangibile. Insomma, ci è capitato spessissimo di parlare pubblicamente di questo caso, anche prima che uscisse il libro, in sedi più veloci rispetto al post, per esempio diciamo, io ho il mio osservatorio e Twitter, ma lo stesso accade anche su altri social, e una risposta che ci si sente dare spesso è: si legga Panza, si legga dando delay, si legga Panza. Beh, sì, il problema è che noi Panza è proprio quello, che Panza l'abbiamo letto, ma l'abbiamo letto sapendo chi è Panza, sapendo che Panza consapevolmente fa un certo tipo di operazione. Cioè, Panza è uno che si laurea in storia. Si laurea in storia con relatore di tesi Guido Quazza, partigiano e storico della Resistenza. scrive il primo libro, quello che esce per la Terza negli anni 60, che è un libro, è una monografia, ed è un libro di storia, con, diciamo, con anche la veste grafica di un libro di storia, con l'apparato di note e tutto quanto. Poi comincia a fare il giornalista, contestualmente, anzi comincia a fare il giornalista perché i reportage sul Vaillant sono appunto dell'inizio degli anni 60, al volgere del secolo inizia a occuparsi di nuovo di storia, ma lo fa in un modo che è completamente diverso da quello del primo libro degli anni 60. Cioè comincia a scrivere quelli che Roberto ha definito dei quasi romanzi, male identificati, quindi libri che hanno una cornice finzionale, dichiarata oltretutto, che non hanno una smilzissima bibliografia, stavo per dire hanno un apparato di note smilzo, ma spesso non ce le hanno nemmeno, alcuni sì ce le hanno qualche nota a fondo libro, ma per il resto, diciamo, Il sangue dei vinti per esempio ha due paginette di titoli alla fine del libro, ma il punto è che la cornice finzionale è dichiarata, ma il marketing che sta attorno al prodotto Pansa vende il prodotto Pansa come una serie di saggi. Quindi Il ciclo dei vinti, come l'ha ribattezzato lui stesso, diciamo, facendo probabilmente rivoltare Verga nella tomba, il ciclo dei vinti è da Rizzoli e da Sperling e Kupfer, che l'hanno pubblicato, era identificato come una serie di libri verità. Ok? Allora, diceva prima Benedetta, quindi il punto è che proprio noi Pansa l'abbiamo letto e sappiamo che cosa faceva. Sappiamo che cosa faceva. Allora, diceva Benedetta una cosa su cui torno anche io, perché credo sia molto importante, che questo libro è una proposta di metodo. È una proposta di metodo da diversi punti di vista, io direi. Quello a cui tengo più di tutti è che è una proposta di metodo di ricerca cooperativa. Cioè, probabilmente chiunque avesse le antenne drizzate nel 2017, quando diventa di dominio nazionale la storia di Giuseppina Gersi, avrebbe avuto la sensazione che quella storia non tornava. Quello che è successo dentro a Nicoletta, invece, è qualcosa di più di un semplice sentore di letame, come lo definiva prima Roberto. È qualcosa di più. Cioè, il fatto di non essere tutte e tutti storici all'interno del collettivo, ma il fatto che ci sia una complementarità di prospettive. Giuristi, filologhe, storici, scrittori, giornaliste, matematici, ha permesso di capire da quanti e da quali punti di vista quella storia non tornava, perché quella storia non tornava non solo dal punto di vista storico, o se vogliamo dire addirittura logico prima ancora che storico, che senso ha eliminare una tredicenne perché ha scritto un tema elogiativo del Duce? Come può essere questo un movente credibile, addirittura spacciato come unico movente, come movente determinante? Quindi già da quel punto di vista, vero che la storia non si fa solo con la logica, però un racconto di quel genere non torna proprio, diciamo, a un acchito superficiale primo. Ma poi ci si è resi conto che quella storia aveva delle caratteristiche narrative molto precise. E qui il contributo degli scrittori e il contributo delle filologhe è stato determinante, perché gli scrittori che le storie le scrivono, come dire, come si rendono conto che una loro trama non funziona, si rendono conto che una trama altrui non funziona. La filologia subentra perché allora, quando ci si rende conto che una trama non funziona e quando ci si rende conto che una trama suona già sentita, allora scatta il bisogno di fare la recensione di tutte le storie che presentano trame simili. E allora, facendo la recensione, quindi vedendole una dopo l'altra, facendo quella che in filologia classica si chiamerebbe la collazione di tutte le testimonianze di una stessa storia, ci si rende conto di quali sono gli elementi ricorrenti. Questo libro è anche una individuazione di alcuni elementi comuni alle storie che noi prendiamo in considerazione, che funzionano proprio come dei luoghi comuni della retorica. Il luogo comune nella retorica è uno schema argomentativo che tu puoi riempire del contenuto che di volta in volta ti viene utile, ma che nello schema logico si ripete identico. Ecco, queste storie antipartigiane hanno dei luoghi comuni, cioè degli elementi argomentativi ricorsivi. Poi cambia l'ambientazione, una volta in Liguria, un'altra volta è in Romagna, un'altra volta c'è una foiba in Toscana, un'altra volta c'è una foiba che cambia di posizione continuamente, si sposta, vola. E proprio questo lavoro di recensione degli elementi comuni, quando è venuto il settembre 2017, noi lo avevamo avviato sia con il lavoro su Wikipedia, sia con il lavoro sulle bufale giornalistiche. Quelle erano vere e proprie bufale, per esempio quella della foiba volante, che probabilmente molti di voi che siete qui ricorderete, perché ne avevamo scritto su JAP. E quindi il fatto di avere quell'esperienza pregressa e le competenze complementari di diverse specialità ci ha permesso di avere fin da subito un quadro abbastanza chiaro di quale fosse la ricerca da intraprendere per chiarire quale fosse davvero, per arrivare a stabilire quale fosse davvero come fossero veramente andate le cose. Di lì poi è partita la ricerca, come diceva Roberto nell'introduzione. Ricerca cooperativa nel senso che noi, e quando dico noi, qua il noi a cui mi riferisco è il noi di lavoratori dell'università, lavoratrici e lavoratori dell'università, soprattutto lavoratrici e lavoratori che operano nel campo delle scienze umanistiche o sociali. Siamo abituati a pensare, siamo stati formati con l'idea che la ricerca è un lavoro individuale, quasi da genio individuale, che si chiude nella sua stanzetta e comprende il mondo. E questa cosa ha una ricaduta molto pratica, cioè per fare carriera nell'università, soprattutto nel campo in cui opero io, che è quello per l'appunto delle scienze umane, bisogna produrre lavori individuali. Ecco, il nostro, senza essere un manifesto, il nostro libro è, come dire, la dimostrazione, il tentativo di proporre un'idea per cui veramente si progredisce nella conoscenza quando si mettono in comune i saperi. Questa cosa non è produttiva dal punto di vista proprio della logica produttivistica di come funziona il lavoro culturale in Italia, però è l'unico modo per fare sul serio ricerca. E diciamo, teniamo a dire anche questa cosa, perché tra i tanti motivi per cui il nostro libro è politico c'è anche questo. Poi un'altra ragione per cui il nostro libro è un libro politico ed è una proposta di metodo è che noi cerchiamo di continuare il lavoro che avevamo iniziato con la guida didattica, applicando quello che là enunciavamo un po' come principio, è vero che facevamo pure nella guida didattica degli esempi, però qui è proprio lo studio di caso, anzi lo studio di due casi. E infatti nel libro voi troverete una conclusione, un paragrafo di conclusioni, anzi un capitoletto in realtà di conclusioni, nelle quali questo lavoro di applicazione al caso concreto delle regole di metodo che avevamo sintetizzato nella guida è fatto vedere proprio esplicitamente, è dimostrato. Noi riprendiamo quelle regole, in particolar modo riprendiamo un eptalogo, un elenco di 7 punti che era stato al centro di un post scritto da Wu Ming su JAP, che era una specie di distillato dell'Apologie pour l'histoire di Bloch. Qua lo riprendiamo e facciamo vedere come per ciascun punto, come ci siamo mossi in relazione a ciascuno di quei punti e cosa ne abbiamo tratto per lo studio del caso concreto. Facciamo anche vedere che non è necessario che tutti i 7 punti dell'eptalogo, di quello che eravamo arrivati a distillare come un eptalogo, devono per forza presentarsi nel caso concreto, in quell'ordine, eccetera. Ma può benissimo darsi che non tutti i punti ti si presentino, però il fatto di averle presenti tutti ti dà un po' la misura di come ti devi muovere. Ultima cosa che dico e poi ripasso la palla, fare questo lavoro di divulgazione secondo me ha un senso rispetto al modo in cui adesso si scrive la storia. Cioè la storiografia è tanto cambiata negli ultimi decenni ed è tanto cambiata perché la storiografia è sempre più diventata la storia è sempre più diventata, seppur lo sia sempre stata, è man mano diventata sempre di più un argomento politico, soprattutto, io l'ho scritto altre volte, soprattutto nei momenti di crisi, quando c'è una società va alla ricerca di una sua legittimazione. Pensate a quanti usi della resistenza sono stati fatti in questi anni, no? Fino al prima del 24 febbraio la resistenza era demonizzata nel senso comune. Tutto un tratto la resistenza intesa come fenomeno armato è diventata la pietra di paragone. Quindi questi sono tutti usi. E sono tutti usi legittimanti di un certo discorso. Allora, il fatto che persone che, diciamo, sono del mestiere nel senso che sanno cosa significa fare ricerca, eccetera, non tengano per sé come una specie di sapere iniziatico il metodo, ma nel momento in cui lo applicano, lo spiegano, è sempre più necessario nella misura in cui la storia occupa una posizione centrale, magari non è proprio il centro, ma secondo me in questo momento è proprio il centro del dibattito pubblico, e quindi vedere come la storia è usata passa attraverso il sapere come il metodo storico è strutturato. Ecco, quindi noi abbiamo cercato anche di fare questo, cioè noi sappiamo delle cose sulla storia perché i nostri percorsi individuali ci hanno portato a rapportarcisi in qualche modo, in vari modi. Bene, noi questa cosa la mettiamo a disposizione di chi ci legge, non in maniera verticale, cioè calando dall'alto i risultati del nostro lavoro, ma facendo vedere come ci arriviamo. Questa è un'altra ragione per cui il nostro libro è una proposta di metodo, o altre cose poi le dico dopo. Allora, riprendo la parola per andare su una questione che ogni volta è sempre un po' l'elefante nel salotto, che è la questione dello stupro. Okay. Perché si cammina sulle uova quando si parla di stupro, ovviamente. Il punto è questo, no? Che fino al XXI secolo nemmeno i fascisti avevano mai accusato di stupro i partigiani. Nemmeno nella pubblicistica repubblichina, nemmeno nei libri di Pisanò, nemmeno sul Secolo d'Italia, ma nemmeno nelle edizioni di Freda e Ventura, non lo so, cioè, ma comunque i fascisti non avevano mai usato lo stupro come calunnia contro i partigiani. Ok? Tra l'altro ricordiamo che nelle brigate partigiane, soprattutto in quelle Garibaldi, ma dappertutto in realtà, vigeva in realtà su questi temi qui una disciplina ferrea, proprio autoritaria, cioè si fucilava per un non nulla, perché non chiaramente nella temperie della guerriglia non si aveva tempo di andare a fare dei processi regolari, quindi se qualcuno faceva una roba che poteva inimicarti la popolazione locale, che è quella che ti supportava, non andavi tanto per il sottile, lo fucilavi. Ok, è la stessa roba che faceva Che Guevara sulla Sierra, no? Nella guerriglia purtroppo va così, no? E quindi chi venisse preso, ma non dico neanche a stuprare, ma a molestare, non so, la figlia di un contadino che ti dava vettovaglie, roba del genere, lo mettevi al muro, quindi figurarsi, no? Ok, fino al XXI secolo, anche nella pubblicistica più becera fascista, non si parla mai di partigiani stupratori. All'improvviso su internet nel XXI secolo cominciano a pullulare storie in cui i partigiani stuprano delle ragazze o addirittura delle bambine. Cos'è successo nel frattempo? Perché lo stupro ad un certo punto assume una centralità proprio morbosa, tra l'altro, proprio con un'insistenza pornografica nelle narrazioni fasciste contro i partigiani, no? Qui non si sta parlando di negare lo stupro, come quando si dice una donna dice sono stata stuprata e tu dici non è vero, menti. No. Qua si sta parlando di uomini che accusano di stupro altri uomini, non delle vittime di stupro che parlano, ma di uomini maschi che si affrontano sul corpo delle donne usando in maniera puramente strumentale e viscida, piegandola a fini ideologici e di parte, una roba grave come lo stupro. Quindi quando si dice Giuseppina Gersi non è vero che è stata stuprata, Norma Cossetto non è vero che è stata stuprata, non si sta negando come quando si dice che una vittima di stupro mente, perché né Norma Cossetto né Giuseppina Gersi hanno mai detto loro di essere state stuprate. È una cosa che si sono inventati dei maschi becerissimi a distanza di decenni, cioè 50-60 anni dopo. Ecco, quindi, e questo va sempre puntualizzata questa cosa, è proprio lo schifo che fa l'uso dell'accusa di stupro da parte di questi qua, che sono tra l'altro personaggi di un sessismo schifosissimo, proprio lercio, capito, che all'improvviso diventano paladini delle donne contro lo stupro, eccetera, eccetera, no? E ci sono dei siti e dei blog in rete dove ci sono dei numeri farlocchi proprio buttati lì a caso, dicendo tipo 3641 donne stuprate dai partigiani, oppure 2858 donne stuprate dai partigiani. Chiaramente non c'è nessuna fonte per questo, sono numeri proprio vomitati fuori dopo essere stati inventati di sana pianta. C'è un blog, si chiama Amici della Folgore, che viene sempre fuori queste robe qua, dove c'è sto titolo appunto, e anche lì dicono lo ha detto Pansa, tra l'altro non è neanche vero, questi numeri neanche Pansa li dà, quindi siamo a un ulteriore livello di invenzione. Fatto sta che il libro prende di petto questa cosa, lo fa con coraggio, quasi subito, dopo una prima parte tesa a dimostrare che le narrazioni antipartigiane accompagnano tutta la storia della Repubblica, perché nell'immediato dopoguerra iniziano le narrazioni diffamatorie contro i partigiani, si propone una breve casistica a titolo proprio di esempio, presa da articoli del Corriere della Sera degli anni 40, 50 e 60. Dopo quella parte lì, subito si va dritti sulla questione dello stupro. Cioè, a far vedere anche la morbosità, l'insistenza, proprio il sessismo insito in queste narrazioni qua. Ecco, vorrei che si parlasse di questo, perché è sempre un po' la cosa spinosa da affrontare. Sì, tra l'altro, proprio il fatto che venga invocata la violenza, lo stupro, sembra anche un po' fatto apposta per non farci parlare della questione, no? Perché come ti poni? Entrano in gioco degli elementi emotivi proprio non razionali che non ti fanno più parlare, no? E si vede questo anche benissimo quando uno si trova... appunto, sempre sui social, li richiamo di nuovo, no? Perché sempre c'è il tweet del 25 aprile e sotto c'è sempre quello che dice ma state festeggiando i partigiani, proprio quegli stessi che hanno stuprato Giuseppina Gersi? E tu gli dici no, non l'hanno stuprata. Ah, ma come ti permetti di dire queste cose? Si sa, l'hanno stuprata. E quindi alla fine uno dice... Ok, mi fermo, non parlo più, ma in realtà è un blocco che deve essere superato. Io devo dire che per noi è stato molto importante, appunto, mi riallaccio di nuovo a quello che diceva Luca, il fatto non solo che abbiamo competenze diverse, quindi vediamo le cose da prospettive, diciamo, disciplinari diverse, ma anche dal fatto che dentro Nicoletta ci sono uomini, donne, non binari, quindi anche tutti con sensibilità diverse. Quindi noi abbiamo affrontato, è stato un momento molto, molto forte, mi verrebbe da dire, molto importante per noi, il momento in cui ci siamo dovute confrontare proprio su questa questione dello stupro e della violenza, proprio perché era evidente che Giuseppina Ghersi sparisce quando si parla della sua violenza, di fatto lei sparisce, non viene vista come una persona. E adesso poi ritorniamo anche su questo fatto dello stupro. Che cosa abbiamo capito a un certo punto? Che quello che fanno queste narrazioni fasciste, soprattutto queste del 2000, è quello di inquadrare un solo elemento con un occhio di bue potentissimo, proprio una luce fortissima, solo quell'elemento, di solito emotivamente molto coinvolgente. Potrebbe essere appunto il caso dello stupro di una bambina, quindi qua abbiamo due elementi addirittura, e tutto il resto non si vede. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato anche quello di spegnere questo occhio di bue per cominciare a vedere tutto intorno, quindi chi era lei, chi è questa donna, la sua famiglia, il quartiere in cui ha vissuto, la città in cui è cresciuta, eccetera. Non so se tu vuoi dire adesso qualcosa, Luca, e allora, poi riaggiungo. Allora sì, dico, faccio un'aggiunta su questo punto, perché un'altra questione decisiva sul come scrivere questo libro, quindi una scelta ancora una volta di metodo e di scrittura, ci è venuta proprio dal dover affrontare la questione dello stupro. Allora, nella storia fascista, come dice il mio amico Carlo Greppi, prefisso fascista, da riempire come si vuole, pre, post, ur, neo, cripto, ecco, nella versione prefisso fascista di questa storia, un ruolo fondamentale per ottenere precisamente quella storia è giocato dall'uso delle immagini, che hanno il ruolo di esasperare l'appello al pathos, di esasperare quella che, diciamo, in retorica si chiama l'istanza patetica, cioè la mobilitazione delle emozioni, che quasi sempre, per come funzioniamo noi, diciamo, offusca, oscura, mette in secondo piano la istanza logica, cioè l'istanza razionale, l'appello al ragionare argomentando. In particolar modo a giocare di sponda con l'elemento narratologico dello stupro è il fatto che la foto di Giuseppina Ghersi, che viene esibita a corredo di questi articoli di blog quasi sempre iperlocali con tre visite, ma che poi evidentemente hanno costituito la base della storia raccontata anche dal Corriere della Sera, ci sono queste foto della comunione di Giuseppina Ghersi. Quindi Ghersi aveva la comunione quando si fa 8-9 anni, no? Ok, io 7, ecco, io l'ho fatta 9, va bene, beh, il punto è quello, sì, ho fatto la comunione, anche la cresima. Bravo, bravo, bravo. Allora anch'io, allora a questo punto. Ecco, siamo, vedete, siamo a posto, siamo a posto, siamo, abbiamo la via aperta, paradiso. Va bene, aperto il cazzeggio. Questa cosa, cioè, insomma, la vista ha un, è predominante, poi se viene utilizzata in questo modo esasperato, mette in ombra il discorso. La vista mette in ombra il discorso. Allora, noi abbiamo scelto, proprio perché diciamo, una scelta che si poteva fare era dire: no, ma guardate quest'altra foto di Giuseppina Gersi, qua non è una bambina, qua c'ha la sigaretta in bocca, insomma, si capisce che è una che s'atteggia anche a ragazza cresciuta, vuole anzi apparire magari più grande di quello che è. Però questa scelta, insomma, al solito ci è maestro George Lakoff, cioè questa scelta avrebbe rafforzato il concetto dei nostri contraddittori, dei nostri avversari, sarebbe stato un negare la loro cosa ma contrapponendogliene una della stessa natura, neghi la foto con un'altra foto. Allora noi abbiamo scelto le foto di non usarle proprio, di non usarle neanche diciamo, neanche di commentare, neanche di descriverle, a parte quelle che corredavano gli articoli dell'epoca del 17. Tra l'altro, su questo va anche detto un'altra cosa, cioè noi abbiamo archiviato tutti gli URL su Wayback Machine, cioè su Web Archive. Noi abbiamo archiviato tutti gli URL degli articoli, diciamo dei media nazionali, alla data del settembre 17. Quegli articoli usavano, non tutti, ma alcuni, direi la maggior parte, usavano la foto della comunione di una Giuseppina che ritraeva una Giuseppina bianco vestita e tutto il corredo, no? Perché ovviamente, diciamo, tra i vari scrupoli che noi abbiamo, naturalmente c'è anche di ricontrollare tutti i link che sono le fonti, alcune delle fonti che noi usiamo. Allora, ricontrollando, questo che dico può essere utile un po' a chiunque lavora con Web Archive, ricontrollando tutti i link ci siamo accorti che in realtà Web Archive non archivia, talvolta non archivia staticamente la pagina al momento in cui tu l'archivi. Se per qualche motivo la pagina cambia, non è detto che su Archive tu ritrovi la pagina esattamente come tu l'avevi salvata. Questo perché sono possibili vari tipi di interazione con Web Archive. I giornali possono chiedere di cancellare, non solo i giornali, ma per quanto ci interessa i giornali, possono chiedere di cancellare un'archiviazione che potrebbe per esempio essere loro dannosa. Ecco, quindi noi abbiamo archiviato degli articoli convinti che avessero la foto della Gersi comunicanda, e invece ce li ritroviamo con delle foto diverse, spesso la foto della lapide. Questo però vuol dire qualcosa, cioè vuol dire che effettivamente il lavoro nell'immediato che avevamo fatto all'epoca era un lavoro che ha sortito i suoi effetti, perché se le foto sono state cambiate vuol dire che allora la denuncia che avevamo fatto allora era una denuncia, diciamo, che ha colto nel segno. Ecco, però attenzione a usare Web Archive, perché noi ci aspettavamo di ritrovare la foto, cioè la pagina esattamente come l'avevamo archiviata, e adesso ci esponiamo alla cosa che uno potrebbe dire: ma io sono andato a controllare la pagina e non c'è la foto che dite voi. Ecco, diciamo, sono diversi testimoni, che a parte ci sono gli screenshot, ma ci sono diversi testimoni che possono garantire che quelle foto venivano usate, che la Gersi comunicanda era ritratta sul Corriere della Sera. Sì, a proposito di foto, aggiungo solo che l'altra foto usata, ancora adesso si fa, è quella della ragazzina con la M, una ragazzina con la M, ragazzino, una donna, una ragazza. Diciamo, vabbè, qui è appunto, qua entriamo nella questione, appunto, come la definiamo, una giovane, sì, non una bambina. e con la M disegnata sulla fronte, circondata da partigiani. E lì quelli, proprio addirittura si dice, questa è Giuseppina Gersi nel momento dell'arresto. E adesso, a parte poi pensare che il 25 aprile qualcuno a Savona avesse il tempo di durante l'insurrezione di fotografare l'arresto di una, insomma, un po' strano. E quella foto è una foto che probabilmente è stata scattata a Milano, non c'è la certezza, però probabilmente è stata scattata a Milano, con la M che è riferita o a Mussolini o alla famigerata Legione Muti, che è stata la responsabile dell'eccidio di Piazzale Loreto, che ha fatto sì che poi i partigiani appendessero Mussolini a Piazzale Loreto. Ecco, quella è un'altra foto, appunto, che viene usata. E ritorno sulla questione dello stupro, perché in realtà noi, lavorando a questo caso, non solo abbiamo dovuto affrontare la questione dello stupro e della violenza, di come trattarlo, ed è vero che il codice dei partigiani era molto rigido da questo punto di vista, però i casi di rapatura delle spie, così, ci sono stati questi casi, no? E io devo dire che è stato anche importante non assumerci la responsabilità, però, insomma, nella nostra riflessione mettere anche il fatto che questi casi ci sono stati, e se posso aggiungere, e lo diciamo anche esplicitamente nel libro, anche che cosa ha significato per le partigiane, perché adesso vengo nel campo dei partigiani e delle partigiane, che cosa ha significato per le partigiane tornare a casa dopo questi 20 mesi di lotta, che per le donne della resistenza è stata una lotta di liberazione, di emancipazione. Ma quando poi sono tornate a casa, sono dovute tornare a casa, ma a casa, stare a casa. Quindi è stata una lotta, citiamo anche quell'episodio in cui, appunto, alle donne è stato chiesto nei cortei del 25 aprile di non sfilare armate. E allora abbiamo messo anche questo, diciamo, nella nostra riflessione. Questo per dire che in realtà questo libro, che può essere letto da tanti punti di vista, insomma, uno dei punti di vista, delle prospettive che secondo me non vanno trascurate, è anche quello dell'elemento femminile nel senso più ampio del termine, ecco. Quindi anche di quello che ha significato, appunto, per le partigiane poi tornare a casa. Non nascondiamo nessuno di questi elementi, diciamo, nel libro, e stanno tutti dentro anche la considerazione anche che di Giuseppina si aveva, no? Di Giuseppina Gersi si aveva a Savona, perché lei di fatto, adesso potremmo dire, era una ragazza liberata, potremmo dire, in un certo senso, perché girava da sola, non solo girava armata, ma girava da sola, frequentava quelli della Imarò, della San Marco, quindi aveva una vita, dormiva fuori, insomma, i genitori di fatto non la controllavano, perché non la controllavano secondo i canoni dell'epoca, no? Perché i genitori si occupavano di commercio, e quindi passavano tutta la giornata via, insomma. Quindi volevo dire che anche di questo ci siamo occupati, ma nel senso più pieno del termine. Prima di chiedere se ci sono domande o interventi, volevo leggere le due frasi in esergo, secondo me, che sono prese da testi letterari, entrambe. La prima è: fu ucciso con una scarica di mitra alla nuca da un mostruoso carnefice bambino, uno di quegli sciagurati sgherri di 15 anni che la Repubblica di Salò aveva arruolato nei riformatori, Primo Levi, Ferro, nel sistema periodico. E l'altra è: Non tutte le storie sono così semplici. Certe inchieste richiedono mesi interi, ma il processo è in tutti i casi più o meno identico. Si tratta di conoscere l'ambiente in cui il delitto è stato commesso, il modo di vivere, le abitudini, i costumi, le reazioni delle persone che vi si trovano immischiate, vittime, colpevoli e semplici testimoni. Georges Simenon, Le memorie di Maigret. Tra l'altro, appunto, un autore non certo antifascista, anzi accusato di collaborazionismo e tutto. Però l'indicazione di metodo che dà è preziosa, appunto, in un romanzo, tra l'altro, di quelli che lui scrive con la mano sinistra, Le memorie di Maigret, non è nemmeno uno dei Maigret memorabili, no? Però ogni tanto dentro c'è queste cose qua. Primo Levi parlava della morte, quello è il suo racconto alpinistico, Ferro, dove racconta di quando andava in montagna assieme al suo amico Sandro Del Mastro, e che usa questa metafora: il mangiare la carne dell'orso, andare a patire, no, in montagna, no, a fare la fatica, eccetera, eccetera, però poi appunto arrivava in cima. E insomma, racconta queste domeniche in montagna con Sandro Del Mastro. Poi lui fu arrestato e deportato, e Del Mastro diventò comandante partigiano delle Brigate di Giustizia e Libertà a Cuneo. E poi appunto fu catturato e fu freddato, appunto, come si dice qua, da uno sgherro di 15 anni. Negli anni 70, il Liberation nel 75, Primo Levi sa bene e sa che i suoi lettori e le sue lettrici sanno che si poteva essere sgherri a 15 anni. La sensibilità dell'epoca non era ancora stata adulterata, edulcorata come quella di oggi, in cui dici, pensi che a 15 anni uno è un bambino o cose del genere. Cioè, sui giornali escono dei titoli baby gang, poi scopri che gente arrestata aveva 21 anni, non scrivi una baby gang, capito? C'è questa infantilizzazione continua. Negli anni 70 non c'era, quindi lui ha potuto scrivere tranquillamente uno sgherro di 15 anni senza porsi il problema. L'età era un non problema, era un non tema. A proposito dell'età, sempre per le spie delle narrazioni, le spie narrative, diciamo. E allora ci siamo accorti di un'altra cosa. Indicatori, nel senso di indicatori. Ci siamo accorti di un'altra cosa, che in queste narrazioni, questo l'abbiamo visto soprattutto nel caso del Monte Manfrei, e anche nel caso l'altro eccidio praticamente finto della colonia di Rovegno, che è sempre in Liguria. Allora, le narrazioni neofasciste cosa fanno? Dicono: i partigiani, in questo caso sono uccisioni di soldati, quindi dicono: i partigiani hanno ucciso 200 giovanissimi soldati ventenni, oppure i partigiani hanno ucciso barbaramente 50 ventenni. E di questa roba tremenda, accusiamo questo partigiano nato nel 1923, quest'altro partigiano nato nel 1921. Allora, voi capite che se noi siamo o negli anni 90 o nel 2010, uno nato nel 1923 è un adulto, aveva 20 anni nel 45, ma se noi diciamo solo la data di nascita, noi la riportiamo subito all'anno in cui noi siamo, no? Quindi immediatamente la prima immagine che si forma è un vecchio o un adulto che uccide un ragazzino. Invece in realtà avevano 20 anni i soldati, ma avevano 20 anni anche i partigiani, no? Ecco. Però questi escamotage, diciamo, perché non è che sono delle cose che vengono a caso, perché vogliamo dire anche questo, che a volte noi pensiamo che i fascisti, i neofascisti non fanno tanta attenzione alle cose che raccontano o a come le raccontano. Pensiamo che siano delle persone un po' così, un po' maldestre, prese dalla loro ideologia. Invece in realtà non è così. Cioè, i racconti che fanno, li fanno in quel modo, con quegli elementi, con l'obiettivo appunto di colpirci emotivamente, di farci credere che sia un adulto che se la prende con un ragazzino. Quindi dobbiamo stare triplamente attenti. Poi non tutti sono consapevoli, o comunque sono consapevoli, no, a livelli, sì, diversi, certo, nel senso, certo, che c'è chi manipola, certo, scientemente, no, come si manipolano, certo, i miti di cui che ha studiato Iesi, e poi ci sono quelli che gli vanno dietro. Certo. Però sì, c'è qualcuno di tecnico, c'è lì, certo, dentro. Tra l'altro il sistema periodico è anche un libro nel quale la rigidità del codice partigiano viene fuori in tutta la sua drammaticità, perché tra le varie cose che racconta Primo Levi c'è anche il fatto che loro, la sua effimera banda partigiana, mette al muro due giovani compagni per non si capisce bene cosa, forse per qualche angheria, ma poi lui riflette a posteriori su questa cosa. Sergio Luzzatto ci ha scritto un libro, Partigia, nel 2013, che ha fatto incazzare un sacco di gente, ma che in realtà è un libro forse non perfettamente riuscito, ma che mette proprio, diciamo, spreme tutto quello che si può tirar fuori da quattro righe di Primo Levi. E tra queste cose che si tirano fuori da quelle quattro righe di Primo Levi c'è anche la spietatezza di quel codice partigiano. Quindi figuriamoci, appunto, quale fosse l'etica, la moralità per prendere il sottotitolo del libro di Pavone, che poi doveva essere il titolo in realtà, però Giulio Bollati ha cambiato, ha suggerito di metterlo sottotitolo. Ma appunto la moralità era anche un'operazione editorialmente zeccatissima, ma la moralità della resistenza era anche una moralità spietata, per cui figuriamoci se poteva avere un qualche, diciamo, al di là delle azioni incontrollate dei singoli, figuriamoci se poteva avere una qualche condivisione mentale la fantasia virile dello stupro. Okay. Quando dico fantasia virile, cito Männer Fantasy, che è un libro fondamentale, uscito negli anni 70 e in Italia tradotto solo, cioè, in parte, perché in due volumi, in Italia è uscito soltanto il primo, che è un libro di Klaus Teveleit, non so se sia questa la vera pronuncia, ma perché in tedesco dovrebbe essere Teveleit, però è un cognome ebreo, quindi forse non si pronuncia così. Lo diceva Teveleit, ecco, perfetto. Lì è forse, diciamo, il primo studio sia narratologico sia psicanalitico di come queste, diciamo, questa che poi diventerà l'accusa dello stupro, no? Come diciamo, prendendo a modello come espressione l'accusa del sangue, quella che diventerà l'accusa dello stupro è anche in larga parte una proiezione del loro mondo mentale e anche del loro modo di agire. Bene, se ci sono curiosità, domande, interventi, siamo qua apposta, soprattutto loro due sono qua apposta, ecco. Quindi ci vuole qualcuno che rompe il ghiaccio, anche con una cazzata, cioè l'importante è rompere il ghiaccio e dopo una curiosità, un qualcosa, insomma. Valerio, te che sei un vecchio animale politico. Diciamo, in più ci sono 250 pagine. C'è un sacco di roba comunque. C'è anche un sacco di roba in più. Se non ci sono domande, ne faccio una io. Allora, se ci raccontate il lavoro d'archivio, perché è una delle cose più affascinanti, no? È una cosa più affascinante. Le fonti qua vengono tutte riportate come è giusto, come vuole il metodo storico. Si dice in quale archivio è stata trovata la tal fonte, in quale faldone e in quale busta dentro quel faldone, di modo che chiunque possa andare a quell'archivio, prendere quel faldone, prendere quella busta, aprire e vedere se l'ho riportato giusto o se l'ho interpretato a modo mio, eccetera. Questo è il metodo storico, no? Ecco, parlateci un po' del tipo di lavoro che è stato fatto in archivio. Allora, sì, tra l'altro alcuni di questi, soprattutto quelli che sono a Savona e che dicono che loro la sanno la verità, a parte che molti dicono, ah no, facciamo a gara di carte, Sì, sì, prego, facciamo gara di carte. Noi, va bene, ok, va siamo bene. Qui. Alcuni avevano mostrato alcuni documenti. Allora, la storia inizialmente era basata sulla un memoriale del padre. Che appunto ha raccontato di aver visto i partigiani che addirittura giocavano a palla con la testa della figlia, insomma qualcosa del genere, e che già lì viene da dire mamma mia, no? Cioè qualcuno davanti al davanti a un testimone, non solo un testimone ma al padre della vittima compie sevizie su di lei, va bene, e, però non ci bastava vedere questi documenti oltretutto fotografati malissimo oppure solo una parte, così quindi abbiamo fatto così, abbiamo cominciato in realtà abbiamo cominciato dall'anagrafe, perché volevamo prima essere sicuri che veramente ci fosse stata una Giuseppina Ghersi morta durante l'insurrezione di Savona. Quindi abbiamo cominciato dall'anagrafe, poi il cimitero per cercare il certificato di morte. Poi abbiamo cercato il certificato di battesimo e l'archivio parrocchiale. Tra l'altro l'archivio parrocchiale ci ha fatto trovare una cosa che nessuno aveva fatto notare e aveva riportato, e cioè nell'archivio, nel riquadro dedicato a Giuseppina Ghersi, dove c'è il battesimo, la comunione, la cresima, appunto, e accanto una mano, probabilmente quella del parroco, ha scritto a mano. Adesso mannaggia che non ritrovo esattamente la citazione, però si dice uccisa dai partigiani in quanto spia fascista, e perché si vantava lei stessa di averne fatti uccidere 7. Lo scrive il parroco, quindi cioè adesso poi noi abbiamo come e lo scrive allora. Esatto, e lo scrive allora, e quindi poi logicamente del fatto che lei fosse delatrice ci sono anche altre fonti, perché ecco, c'è da dire anche questo, che noi per primi ci siamo impegnati strenuamente a evitare gli errori e la trascuratezza degli altri, perché noi per primi non ci siamo accontentati di un documento, ma li abbiamo fatti parlare tra di loro. Non ci siamo accontentati di una testimonianza, ma abbiamo cercato che ci fossero documenti che la suffragassero, che la sostenessero. Quindi tante cose noi non le abbiamo messe, noi abbiamo visto tantissimo materiale, ma non c'è tutto, c'è solamente quello che poteva essere verificato e confermato da altro. Quindi l'archivio di Savona è stato visitato parecchio, anche l'archivio di Genova per le carte, mi sembra Luca, quelle del processo, soprattutto sì, al partigiano sì, che sono conservate che era stato in corte accusato, d'appello, quindi a Genova. E quindi l'archivio di Genova, anche l'archivio centrale di Stato di Roma, perché volevamo cercare assolutamente questo tema che veniva appunto spacciato come unica causa della morte di Giuseppina Ghersi, quindi anche l'archivio della scuola non siamo riusciti a trovare tutto quanto, però in gran parte del materiale sulla scuola e così l'abbiamo trovato. Nell'archivio centrale dello Stato abbiamo trovato che questo tema in realtà era una lettera. Adesso aiutatemi a fare l'esempio, perché lei ha scritto questa lettera a Mussolini come una fan. Allora, a Savona alla prima presentazione ho detto come scrivere una lettera a Simon Le Bon, ma mi hanno guardato come dire ma chi è questo Simon Le Bon, che invece per me era importante. Chi può essere Gianni Morandi? Chi può essere un cantante o un attore a cui si scrivono queste lettere? Ah, quanto mi piaci, sei così. Non solo in realtà lei aveva scritto questo, ma lei aveva... lei scrive addirittura: io vorrei essere una fascista combattente, non posso perché sono una donna, quindi non posso, però insomma faccio di tutto. Peraltro, piccola parentesi, come dicevo prima a Luca, leggendo il terzo libro di Scurati su Mussolini, c'è un pezzettino su Clara Petacci che ha praticamente fatto la stessa cosa. Cioè, lei prima di conoscere Mussolini, lei tredicenne ha scritto una lettera da fan a Mussolini, poi dopo loro si sono incontrati, però insomma l'ha fatto Clara Petacci, l'ha fatto Giuseppina Gersi, l'hanno fatto migliaia e migliaia di persone, e Mussolini aveva una segreteria apposita che si occupava di queste lettere, non solo le leggeva o comunque si faceva dire quante erano, ma aveva chiesto espressamente di rispondere a tutte. Quindi il famoso encomio, quello che si dice l'encomio, in realtà è semplicemente la risposta della segreteria personale di Mussolini, che dice: il duce ha letto, grazie, sei fantastica, insomma. Qualcosa del genere. E Duce prende atto dei sentimenti espressi. Luca si ricorda le cose a memoria, per fortuna che lui si ricorda le cose. Sì, quindi neanche encomio. Allora, cosa abbiamo fatto con i documenti dell'archivio? Perché appunto non potevamo andare tutti quanti insieme per tanto tempo a Savona. Quindi abbiamo avuto il nostro uomo a Savona che ha letto, ha guardato tutto, ha controllato tutto e che ha fotografato o fotocopiato e ha creato per noi, per tutto il gruppo di lavoro, un archivio digitale notevolissimo che abbiamo letto veramente fino alla lettura delle bozze, accorgendoci che avevamo trascritto male alcune cose, e quindi parte delle indicazioni sulle bozze sono state le rettifiche sui documenti, ma ne abbiamo visti una quantità, non l'abbiamo mai contati, però sono parecchi mega di documenti archiviati, soprattutto a Savona. Di alcuni di questi documenti, lo dico solo se hai finito, Benedetta, sì. Se no mi accodo dopo. Di alcuni di questi documenti abbiamo fatto l'edizione. Allora, sono documenti inediti, quindi che non sono mai stati trascritti e mai stati pubblicati, come nel caso della nota aggiunta al registro parrocchiale. Fare l'edizione... Adriano Prosperi, il grande storico, dice sempre che il principale strumento che uno storico ha a disposizione è la filologia, cioè la capacità di saper leggere lentamente i documenti. Ecco, noi abbiamo fatto anche questo tipo di lavoro, perché non solo ci siamo letti lentamente tutti i documenti già noti, e leggerli lentamente significa capirli. Faccio soltanto un esempio, ma rimando al libro perché altrimenti poi sarebbe infinita la storia, ma dire, come è stato detto, che gli assassini di Giuseppina Gersi sono stati assolti in un processo farsa che ha insabbiato le responsabilità, significa, nel migliore dei casi, cioè nel caso in cui questi documenti siano stati consultati, noi diciamo, ci permettiamo di dubitare, ma significa nel migliore dei casi non aver capito nulla di quello che risulta dai documenti del processo di cui parlava prima Benedetta, che sono documenti che sono conservati, si trovano a Genova, bisogna saperli leggere. Ovviamente per saperli leggere bisogna avere anche delle competenze giuridiche, ma si vede benissimo dagli atti del processo che quello è stato tutt'altro che un processo farsa, è stato un processo in cui si è applicata la legge vigente, piacesse o non piacesse, era quella la legge vigente. La legge vigente era, tra le altre cose, l'amnistia Togliatti. Quindi quelli sono gli imputati dell'omicidio di Gersi, sono andati assolti perché è stata applicata l'amnistia Togliatti, che sicuramente non è un provvedimento, diciamo, pro partigiano. Ecco. Una motivazione che hanno agito per motivi Ecco, esatto, questo è importante, questo che dice Roberto è importantissimo, perché si applica l'amnistia? Perché l'amnistia dice, sono amnistiati per l'appunto i reati condotti per motivazioni belliche nel contesto della guerra, diciamo, chiamiamola pure guerra civile. Quindi diciamo che la motivazione non entra nel merito, ma non entra nel merito soltanto apparentemente, la motivazione della sentenza che assolve l'imputato Luigi Rossi, non entra nel merito, ma soltanto apparentemente, perché se ci si dice che quel reato è amnistiato, ed è amnistiato perché è un reato integralmente motivato da ragioni di guerra, allora si sta dicendo che si iscrive quell'atto nella normale prassi della guerra, quindi un accertamento di merito in realtà c'è nel dire questa cosa. Non è un crimine di guerra, non è un crimine contro l'umanità, tra l'altro diciamo la categoria poi è di conio e di perfezionamento successivo, quindi però per l'appunto non è un reato, allora non si dice che non è un reato, e attenzione, non si dice che non è un reato, si dice che è un reato motivato da ragioni di guerra. Sì, posso leggere? Esatto, sì, è importante. Allora dice, senza alcuna ragione, beh, il beneficio è applicabile ai quattro omicidi, perché erano solo altri, quello di Giuseppina Ghersi, ma anche altri tre, commessi subito dopo, senza alcuna ragione diversa dalla lotta contro il fascismo, in persona di elementi infidi che avevano collaborato coi tedeschi e combattuto contro i partigiani. Questo lo dice un giudice istruttore, ecco, non è che lo dice. Chiunque abbia letto le ricerche partigiano di Claudio Pavone sulla continuità dello Stato sa che la magistratura siamo nel 1950-51, sa che la magistratura dell'epoca era tutto tranne che incline a riconoscere le ragioni dei partigiani. Era molto più incline a riconoscere le ragioni dei fascisti. Sì, ecco, ok, quindi altro che processo farsa. Va bene? Poi chiudo con quello che stavo dicendo prima. Fare l'edizione dei documenti, anche questo è importante, non significa mettere la foto sfocata come fanno i nostri bersagli polemici, che fanno il post, ah guardate il tema, e poi vai a vedere, non è neanche un tema. Significa dire, fare l'apparato critico, ovviamente non come in un'edizione, diciamo, delle belle lettere, quindi non c'è l'apparato critico scritto in latino, ma c'è la trascrizione di quello che noi leggiamo, e dove il testo è illeggibile, invece di colmarlo a fantasia, come fanno i fascisti, diciamo, quella parte è illeggibile, cade in lacuna. Ecco, questo è un lavoro serio. Dire, pubblicare una foto e poi lanciarsi senza nemmeno trascrivere o parafrasare il testo in una interpretazione è lavoro dilettantesco, quando va bene, in malafede nella maggior parte dei casi. Non ci sono curiosità, domande? In realtà abbiamo detto, cioè, solo una piccola parte di quello che c'è dentro il libro, ecco. Però, insomma, vabbè, se non ci sono domande, io direi che possiamo chiudere qui con un augurio di buona lettura. È un libro molto importante, invito proprio a averci a che fare, perché indica un metodo, demistifica delle panzane fasciste. Di panzane fasciste non è che ne vedremo di meno andando avanti, ne vedremo di più, e quindi è importante. E ringraziamo Nicoletta Burbacchi per questi 5 anni di sbattimento. Grazie Roberto, grazie a tutte e a tutti voi.